Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. In sommario oggi l'aggiornamento sui lavori lungo la Palermo-Catania ad un anno dalla frana che ha investito il viadotto Himera. Ci occupiamo poi di sicurezza stradale, cronotachigrafi con le ultime disposizioni comunitarie in materia e ancora di cabotaggio abusivo con la protesta che sta montando in Francia. Un anno fa, era il 10 aprile, in provincia di Palermo, tra Caltavuturo e Scillato, una frana aveva investito i piloni del viadotto Himera lungo l'autostrada A19 Palermo-Catania. L'interruzione dell'arteria aveva spezzato in due la Sicilia, innescando disagi e un pesante aggravio di costi a carico dell'intero sistema logistico isolano. Ad un anno dal crollo, Eutimio Mucilli, direttore della sede regionale di ANAS, ricostruisce quanto è accaduto e delinea le tappe da seguire per giungere al ripristino della circolazione sul tratto interrotto. È successo che chiaramente è stata inibita il transito dell'autostrada sia in direzione Catania che in direzione Palermo, e intanto ci si è attivati immediatamente per realizzare, per ripristinare la continuità con una bretella provvisoria. Questa bretella è stata completata e aperta al traffico il 16 novembre del 2015. Dopodiché la carreggiata in direzione Catania, Palermo-Catania, che era stata investita evidentemente dalla frana, è stata demolita il 22 di dicembre con ricorso ad esplosivo. Quindi si sono attivate tutte le verifiche necessarie per valutare la condizione della carreggiata in direzione Palermo. Stiamo facendo tutta una serie di indagini, di prove per verificare la possibilità della riapertura, quindi della sola carreggiata in direzione Palermo. In questa attività ci avvaliamo di due consulenti anche qui locali dell'Università di Palermo, sia un esperto geotecnico che uno strutturista, per cui contiamo entro, spero, la fine del mese di aprile di sapere come, quando e con quali accorgimenti si possa riaprire la carreggiata in direzione Palermo. Su questa carreggiata potrebbe essere istituito un doppio senso di marcia, ma si valutano anche altre ipotesi. Potrebbe essere utilizzata per il senso di marcia naturale, cioè in direzione Palermo, e lasciare la bretella solo per la direzione di marcia in direzione Catania. Ecco, questa potrebbe essere un'opzione. Ma quando inizieranno i lavori di ricostruzione della carreggiata in direzione Catania? Sentiamo ancora Eutimio Mucilli, direttore della sede regionale di ANAS. È in corso di redazione, di sviluppo, il progetto per la ricostruzione del tratto di carreggiata in direzione Catania, con un'opera sempre in viadotto di circa 270 metri, la cui progettazione è previsto venga completata entro il mese di luglio di quest'anno, e quindi abbiamo programmato che si possa divenire la conclusione anche dei lavori entro il 2018, in modo tale da avere tutte le due le carreggiate completamente agibili. Dalla A19 alla A12, dove dal 1 aprile è scattato il pedaggio nel tratto Tarquinia-Civitavecchia. Questo tratto era stato aperto il 22 marzo in modalità provvisoria per agevolare gli spostamenti in vista della Pasqua. Sono esentati dal pagamento del pedaggio i residenti nel comune di Tarquinia. Rimaniamo sulle autostrade, dove da qualche tempo arrivano segnali che indicano una ripresa della circolazione in generale e dei mezzi pesanti in particolare. Nelle scorse settimane vi abbiamo dato conto dell'aumento del traffico pesante a febbraio sulla rete stradale di ANAS. Ora c'è un altro dato, è stato elaborato dal Centro Ricerche Continental Autocarro, ci dice che nel corso del 2015 i transiti di veicoli industriali sono aumentati del 3,8% rispetto al 2014, un dato leggermente superiore a quello generale, il cui incremento è stato del 3,6%. I want member states to show stronger political commitment, to push for change. We need better enforcement. Education. Quella che state sentendo è la voce di Violetta Bulc, commissario europeo per i trasporti. Parla di incidenti stradali, invita i governi nazionali ad un forte impegno sul fronte della prevenzione e riferisce gli ultimi dati. Nel 2015 in Europa le vittime della strada sono state 26.000, con il tasso di mortalità rimasto sostanzialmente invariato, 51,5 vittime della strada per un milione di abitanti. Questo tasso era sceso in maniera significativa tra il 2008 e il 2012. 2012, ma da allora la tendenza si è fermata. Il costo sociale dei morti e dei feriti su strada è di almeno 100 miliardi di euro, ha detto Violetta Bülk. Per quanto riguarda l'Italia, è seconda per numero di vittime, preceduta solo dalla Francia. Dopo anni segnati da una diminuzione dei morti, nel 2015 lungo le nostre strade si è registrato un dato in controtendenza, più 1%. Di qui la campagna per la sicurezza promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della quale lo stesso ministro Graziano Del Rio ci ha parlato durante la puntata della scorsa settimana. In tema di sicurezza e di prevenzione degli incidenti, ora parliamo di cronotachigrafi. Per chi non lo sapesse, il cronotachigrafo è il dispositivo obbligatorio su tutti i mezzi sopra le 3,5 tonnellate che misura e registra distanza percorsa, velocità e tempi di guida e di riposo. Dal 2 marzo sono in vigore nuove disposizioni relative all'uso di questa apparecchiatura. Una in particolare riguarda le imprese di autotrasporto e la formazione degli autisti. Sentiamo Lucia Angeloni, capo redattrice di TIR, la rivista dell'albo degli autotrasportatori. Da marzo sono scattate nuove regole che si basano su un regolamento dell'Unione Europea del 2014. Una parte è già entrata in vigore a marzo dello scorso anno e una parte relativa proprio alla formazione degli autisti per quanto riguarda i cronotachigrafi è entrata in vigore il 2 marzo di quest'anno. Quindi le aziende ora hanno l'obbligo di formare i propri conducenti sull'uso dei tachigrafi, sia digitali che analogici, e su come funzionano. Devono inoltre controllare, fare controlli per che questi strumenti vengano utilizzati correttamente e che non ne venga fatto un uso improprio. In caso contrario, le imprese sono considerate direttamente responsabili per le infrazioni al regolamento commesse dagli autisti stessi. E proprio in questi giorni la Commissione europea ha adottato le specifiche tecniche per la nuova generazione di cronotachigrafi che potrebbero diventare obbligatori a partire dal 2019. Come funzioneranno? Sentiamo ancora Lucia Angeloni. Si baseranno ad esempio sul sistema di navigazione satellitare Galileo, che dovrebbe cominciare ad operare già dalla fine dell'anno, visto che saranno 18 i satelliti in orbita, oppure tramite il sistema GPS. Con i nuovi apparati quindi si potranno ad esempio leggere i dati da remoto utilizzando i sistemi wireless, e questo permetterà di tracciare il percorso dei veicoli e di controllare l'attività che viene svolta dal conducente. Quindi sarà più facile evitare manomissioni al tachigrafo, ad esempio per quanto riguarda i dati sui tempi di guida e di riposo. Il cabotaggio abusivo e il dumping sociale sono fenomeni collegati che da anni inquinano il mercato e la libera concorrenza in Italia e in tutta Europa. È stato l'argomento dello speciale di hashtag Autotrasporti andato in onda lunedì scorso. Per sollecitare Bruxelles e i governi nazionali ad intervenire allo scopo di arginare questi fenomeni, in tutta Europa monta la protesta da parte delle associazioni di categoria. In particolare in Francia, OTRE, che rappresenta le piccole e medie imprese, ha indetto per sabato prossimo una giornata di mobilitazione nazionale. E nei giorni scorsi a Nizza una delegazione di Confartigianato Trasporti di Imperia ha incontrato una rappresentanza di colleghi francesi. Antonio Marzo è il presidente provinciale di Confartigianato Trasporti. I problemi che ci accomunano abbastanza seriamente sono: la prima, il discorso della legge antidumping, e poi diciamo la cosa pesante che ci accomuna è il discorso del cabotaggio. Praticamente sia in Francia che in Italia, soprattutto in Italia, siamo in sofferenza da parte dell'Europa dell'Est, perché loro si possono permettere delle tariffe che noi non ci possiamo neanche sognare. Praticamente questi qua lavorano 365 giorni l'anno, ma in Italia, e nessuno li controlla. Cioè, cosa succede? Succede che devono chiamare l'interprete, perché questo qua non capisce l'italiano, non capisce quello che gli chiedono. Una volta che è arrivato l'interprete sono passate delle ore. Se fanno il sequestro del mezzo in certi posti, tipo Imperia, non sanno neanche loro dove metterlo, e qua più delle volte lasciano correre. Faccia conto che un autista rumeno, che lavora in un'azienda rumena, costa di media dai 2.000 ai 2.500 euro meno che in Italia o in Francia. Dopo l'incontro di Nizza, l'obiettivo è proseguire il rapporto di collaborazione tra operatori italiani e francesi. Adesso ci dovrà essere poi un incontro con i nazionali, un incontro più profondo, dove diremo quello che Bruxelles e i vari governi devono fare nei nostri confronti. Hashtag autotrasporti e finisce qui. Grazie per l'attenzione. Da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.